cari nel Signore. La musica per i credenti di ogni generazione ha rappresentato e rappresenta la vera adorazione a Dio. Per questo voglio invitarti personalmente ad ascoltare questi canti con tutto il tuo cuore, affinché Dio in questo momento possa benedirti. Se guardo in cielo e stelle, vedo te, te solo vero amore che per me, la vita per salvarmi tu donasti, in croce con dolore tu moristi, tu santo portare.